la macchina non ha tenuto, capito? Lui ha sbandato nella curva e si è allargato. Si è allargato sino a quasi a fermi addosso. Io l'ho seguita per commissione, se deve guidare per matrendola, la cosa, la segnaletica e tutto quanto, infatti me l'hanno detto con la commissione. No. Io ho imparato una cosa, quando tu sei convinto di essere bravo, è la volta che perdi. Infatti, mi dico cosa è meglio, La sua voce, infatti, insomma, era convinto, quale ne rimano punti dopo, ecco. Gli dava la sicurezza anche dalle macchinone che aveva. E invece ha pigliato, cazzo, guardava in pieno, si è messo come la scatoletta, cazzo, si è fatto la macchina di goglio, ma è una cosa che era convinto, parete. A Marita Fendi, di Croso, sorpassando la macchina dell'altra. E a Rimita Giosso, che è partita di culo la macchina, o dopo me la guardava. E ieri ho visto quel ragazzo che era ammazzato a Polo Torres, quello ubriaco, l'ha abbigliato in pieno, e intanto quel poveraccio che si alzava ogni mattina alle 4 di mattina per andare al porto, che stava a pigliare un pesce, se n'è andato, a cui pare un guascio che era ubriaco. E io ho detto già, quello di ieri, non lasciare alcol, nonostante che abbiano ancora messo, modificato questa legge dell'alcol, manco pare male passa. Ecco, alcolico zero deve essere. Allora chi c'ha meno di 2 anni di patente, zero, non c'è nessuna alternativa, zero. Se combini qualche incidente c'è l'arresto subito immediato. E per quelli che hanno la patente superiore è 0,02. Ecco. Avanti, buon Giuseppe. Buonasera Gianni e buonasera Bovela. Mi sentite e cordialità come sempre, K. Buonasera Giuseppe, stavo cercando proprio a te. K, parli del lupo e sfruttano fuori le orecchie. Ti ho capito Giuseppe. Tu hai detto, stavo pensando proprio a te. Infatti il proverbio dice, parli del lupo e vengono fuori le orecchie. No, stavo proprio cercando, ti ho detto, vediamo se c'è il gennaio 1990. Stavo cercando a Giuseppe. Stavo anche maneggiando il telefono per telefonarti. KK, sono qua Pierpa, dimmi pure. KK, non dobbiamo fare quella cosa. Pronti? Non ci sta nessun problema. Pronti? Pierpa, fai una cosa. O scendo io a prenderti o come rimaniamo d'accordo? No, tu prendi la macchina e vai di là dove l'altra volta. Io ce l'arrivo. K, dai. Mi filo i pantaloni e mi sto attroppinguando. Cappa, di voglia è positiva, te ne esprimiamo questa cosa, dai. Gianni Ghetto, ti lascio che mi metto un qualcosa addosso, vai. Vabbè. Già, ci sentiamo stasera. Ok, ciao. Avanti Giuseppe. Cappa, vieni, adesso stacco il ROS, metto da qui e me lo metto dentro una bustina. Ehi. Cappa, al quadrato, che lì è libero. Lì adesso dobbiamo rosmetreggiare. Ma non penso che voglia rosmetrata, è una volta che è regolata, se è messa bene, la massa è fatta bene, dovrebbe risultare buona la posizione. Positivo. Adesso mi filo i pantaloni, poi niente di strano che ci sentiamo stesso dalla macchina, amica. Ehi, intanto ce l'hai in macchina adesso. K, è tutto collegato, manca solo lei. Va bene Giuseppe, io lo lascio acceso, tanto che ore sono ancora è un po' tardi per andare, un po' presto per andare. Ehi K, io riprendo dalla macchina, il tempo di infilarmi i pantaloni e sto scendendo. Cappa, Avanti. Chi stava chiamando Giuseppe? Chi stava chiamando Giuseppe? Cambio. Che chiama? Chi mi stava chiamando? Tu? No, negativo. Io lo stavo parlando con Marcolino, ma non ho acceso la... non ho parlato la parte. E infatti qui era ancora acceso, sono tornato indietro e non sono riuscito a capire chi era. Dai, poco male, vado a vestirmi, ci sentiamo dopo già. Dovrebbe essere gente nostra, subito, Dudu, come metto finale, Dudu. E infatti ho sentito. Vai da me. Oh Gianni, se voglio che sono accordando, scusate. Siccome c'era un po' di bianco e non avevo sentito nessuno. Figurati Mario. Un tuo ex collega mi ha detto di darti i saluti, di stringerti la mano. Mi ha detto come si chiamava, ma non me lo ricordo. Giuseppe. Si chiama Enzo. Ah, Enzo Mario. Enzo, ma entrava in frequenza? Cappa. Enzo, se è che si collega a me, quello lì è, hanno, è deceduto, è Renzo. Piribicchio, Piribacchio, come si chiamava? Non Renzo, Enzo, Empoli, Napoli, Napoli. Zorro, Zorro, Empoli. Empoli. No, è otra, Enzo, Enzo. Ah, non me ne ricordo, non me ne ricordo. Grazie, ricambiate sempre. HI, fa sempre piacere. Come sta uscendo? Sta uscendo bene, va. Bene, va. Adesso c'è un negozio di vetture, dai, vende macchine a seconda mano, eccetera, eccetera. Mi ha detto di dire anche il cognome, ma non mi ricordo come si chiama. Non fa nulla, no, quando te le ricorderai, ma è in pensione già, no? Penso che abbia cambiato lavoro. Mi ha detto, mi ha nominato anche Biasiati, cosa, che lavoravano con lui, e te la lavoravi con Mario. Dice sì, Mario, caspita. E mi ha detto salutamelo tanto quando lo sento. Grazie Gianni, ricambia sempre quando hai qualche amico, ok, fa sempre piacere. Avanti Tonino. Era Tonino, era Giuseppe. Era Giuseppe Tornado. Questo qui si chiama o Piribicchio o Piribacchio, adesso non me lo ricordo in frequenza. Pinnacchio. Piribacchio. Non me ne ricordo, non me ne ricordo. Chissà quanti anni è questa ragione. Per lui mi pare che ha lasciato, nell'82 mi pare che ha lasciato l'istituto. Sì, io l'ho lasciato nel 90, immaginati. E adesso bisogna vedere se era nel mio istituto oppure con l'altro, che era via Umberto. Con Farina era. Ah, con Farina era. E allora... allora, c'era con me. Kappa. Sì, me l'ha detto che era tuo collega. Beh, cosa vuoi fare? Beh, Gianni, io mi assento un momentino, ho capito. Perché sto seguendo qualche appunto, devo prendere dalla TV, capito. E saluto anche a Giuseppe, ben sentito, alle prossimine. Ehi Mario, dai, buona serata, ci sentiamo. Giuseppe, ci sei? Oh Giuseppe. Giuseppe Giuseppino, cosa fai nel tuo giardino? Come sta andando questa radio? via da te. Uia, a me mi tocca ancora andare travagliando. Io ho avuto una settimana molto piena, questa settimana è stata a lavorare proprio, cambio. Con questa giornata sia a Sassa di Campostontore, tre strade chiuse, piena di drogato a coda a Regano a Garito, magari dove c'è la strada chiusa, un casino, meno male che c'è anche il carrello, eh? Molte cose per fare prima, per un pacco pieno di robusti. Oh, pare fatta apposta, tutti i carrelli che erano esarrati, proprio tu se ne va. Avanti, chi è? Sono me, giusto per salutarvi, riprendo fra 5 minuti. Scendo in macchina e riprendo. E io Giuseppe, siamo qua, voglio sentirti dalla macchina. K, sperando che sia rosmetrata, sperando di non far danno, dai. Ci sentiamo a frappè. Ciao Antonio, ciao Gianni. Qua, se c'è in stazione te la accorgi subito, se c'è l'avviti si accende, si fischia e fa queste cose qua, comunque già me la metto pure io. KK, a dopo. Non le hanno quelle lì. Vabbè. Se l'hanno 48, no, quello Axel, non ce l'ha quella spia lì. L'avvi. Adesso il Max lo sta piazzando. Va bene. Se avesse messo un bel amplificato, ma ci mette anche il coso di MMD? Sì, già l'hai, non te lo ricordi. Che attacco c'ha tu, quello a 4 punte? No, però, ma come va a 48? E allora già va bene. È un burro. Voglia, che va bene. Io odio, sai che cosa, quegli attacchi a spinuti di quelli interni. Mamma mia. La spina, tu. Quelli che hanno praticamente 5 cose di quelli a spina che per saldare devono essere gli occhi, c'è il buco piccolo. Capa. Lo sai che quegli spinotti non si trovano perché abbiamo chiesto di farmi l'attacco per DMM, la telecomunicazione mi ha scritto che il microfono praticamente c'era ma non aveva trovato lo spinotti in vendita. Ci sono avanzi di magazzino, finiti quelli non ce ne sono. Ci sono qua qualcuno avanzi di magazzino, ma là che hanno una richiesta superiore non ne sono più avanzati. E quelli che avanzano, lo so, siccome non ne fanno più di apparecchi così, quelli che li sono rimasti ce li hanno. E magari qualche apparecchio così che fanno ancora. Ne ha bisogno e lo compra. Vabbè, comunque già sfornari, Per la via Giambate direttamente un attacco con gli apparecchi. Un po' di gente lo fa, si cambia, se lo mette a 4 punti. Ehi, insomma, un casino bisogna fare. Kappa. Vabbè, bisogna saperlo fare, naturalmente, non è una cosa da ragazzi. Bisogna saperlo fare, ma quello di Giuseppe che vuole farlo, io gli ho detto, se lo vuoi mantenere originale, lascialo così, perché non lo so quando te ne vale la pena. Se no dietro, quelli c'hanno, dietro tutto la mascherina, fanno tutto un attacco particolare e devi tagliuzzare tutti quei piolini che c'ha. Devi tutti tagliuzzare, rischi di rovinare, poi anche rovinare la mascherina. Basta invece che tagliuzzarli, farlo a caldo, scaldi un cacciavite, risciugli, e dopo l'inizio per la mia. Anche tu c'hai ragione, ma anche così si potrebbe rovinare. Lo so per fare. Sono cose molto delicate, bisogna farlo tranquillamente, molto lentamente, fatto con precisione, come è fatto. Poi solo che se ti scappa lo caccia a vite, vai di bruci la subito e fai danni. E te lo sto dicendo, io ne ho fatto uno di quelli, una persona, ne ho fatto uno e mi è andato bene, un altro mi è andato male, ma quando è di un'altra persona è difficile, capito, puoi dirmi, si è rovinato, perché non è mai fatto un niente, è rimasto uno, praticamente è rimasto il becco di una plastica, ma forbice a becco, sono andato a tirarlo come l'ho girato, tanto è venuto fuori tutto il pezzo intero, è rovinato. Spaccato. Ah? Si è spaccato. E allora, un niente, guarda, non è stato un niente. Sono cose un po' delicate. Io quando sono così delicate le cose preferisco farlo a caldo e poi magari dare una limattina appena leggera, capito? Senti, mi sentite? Sì. No, però ti sento. KK, io sono in direzione nord-ovest, sono qua in Rapascoli. Prova Giuseppe. Attenzione, doppio rum, se vai copiando Giuseppe per prova radio. KK. Serpa, lo sento chiuso come radio, non è aperta. Occupo. Lo senti? Occupo, non è aperta la radio come è aperta a casa sua con l'altro apparecchio. Prova a alzare, a quanto ce l'hai l'apparecchio, Giuseppe? Ho tutte e due i cosi quasi su 4, sia l'eco che l'amplificazione. Adesso va bene. Cosa hai fatto? Te lo sei avvicinato? Sto cercando di riprendere le vecchie abitudini di modulare dalla macchina. Così va bene, così è perfetto. Poco fa non mi piaceva, ce l'avevi lontano o troppo vicino, non lo so. Kappa. Comunque è molto silenziosa, Vaga. Ah, ma anche la mia è silenziosa. Era quel periodo lì solo, adesso è scomparso, il rumore non c'è più. Positivo, qua proprio rumore zero, nessun turbino, niente. Ci sarà lo squelch inserito allora. No, niente squelch. Sento quelli appena, ma dico rumori di scariche elettriche e tutta quella cosa lì, praticamente zero. Campa meglio così. Giuseppe, ma hai tolto il separì che c'è la cassetta? No, il separì l'ho lasciato perché sopra ho messo il libretto di circolazione. Ah, vabbè. Kappa. Io l'ho messo dall'altra parte. Kappa, comunque già va bene. No, io l'ho tolto perché io ce l'ho la 48 e non ci stava, se no. Mi ho studiato a casa un sistema per bloccarlo. Anche io. Non c'è problema, è straibilissimo il mio. Quello che voglio dire è... Niente. Comunque adesso vai bene. All'inizio non mi piaceva, però non capisco il perché, se ce l'avevi troppo attaccato alla bocca o lontano, non lo so. Adesso la radio è bella squillante. Vedi un po' come ti sono arrivato adesso, Gianni. Segnale. Di segnale di radio. Ufa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Garzarola, 9:40 radio 5. Va bene. Ma dove sei? Alla mia postazione? No, adesso sono dietro via Palmetta. Dietro via Palmetta. Sei sotto casa mia, praticamente. Diciamo che sono dalle parti dietro la questura, vicino alla questura. Arrivo bene, dai. arriva bene, non c'è problema. Tu mi devo alzare di nuovo, là. Vediamo un po', vai. Non mi viene il nome, la pizzeria che c'è. È stata veramente una bella serata, c'era karaoke, un bel niente. Mangiavi la pizza, tranquillo, non è che pagavi subito, tutto anche dopo mangiato la pizza te ne stavi lì. Però quando uscivi ti facevano il conto. Walden Green. Ah, mi è venuta adesso, Walden Green. Non mi vedi per nome. Eravamo una bella greffa tra ragazzi e ragazze, cose. Più o meno giovani. E siamo stati bene, abbiamo cantato e tal. Non ti veniva, ti lascio il tuo io. Era di lì dietro. Cosa mi hai detto? What angry? Ma non me l'hai detto, a me mi hanno invitato degli amici su Facebook, mi hanno detto se andavo. Sono amici che avevo prima naturalmente di avere Facebook, che frequentavo già, siamo sentiti su Facebook, ma tra i civili ti inviti a stasera, io, e siamo andati. No, non hai capito, te l'ho detto io, ora ti ho ricordato il nome del posto, dove ti ho detto di andare lì. Sì, è vero, vabbè, perché quello detto me l'hai ricordato. Beh, ci mancherebbe, sono quella amnesia. Che se la fermo, ma non mi veniva questa amnesia, dove si dà la vecchiaia? Stava la vecchiaia Carogna, Gianni. Non avreste mai sassanese? No, non è una frasema. È un detto sassanese, chi la vecchiaia è Carogna, non è una frasema, la frasema. No, la frasema è vecchio minaccio e mi tiro di Nandi. Sì, magari, ma la vecchiaia Carogna è un detto, là. Che quando si diventa vecchi, capito, si comincia a raccogliere, però si dimentichi le cose, come va, e quindi la vecchiaia Carogna, gamba. Ma non è questione di vecchia, è questione di stanchezza, sai. Stasera è questione di stanchezza perché ho fatto una settimana, ti puoi immaginare, poi c'era un casino, tutte le strade chiuse a Bordantone, dovevo fare mille giri per consegnare, avevo che dire la roba, fendi un barista da piedi e cose perché erano chiuse le strade. Io ce l'ho ieri notte a Bordantone, c'era una festa in un pub che è inaugurato a tiri. E dove sto via, via Benson su Rosa. Benson, come si chiama? Per rimane. E una traversa lì dentro, prima di arrivare alla piazza del comune. Una traversa via Bibbio. Una traversa della via principale. E via Libio, via Petronia, non so com'è esattamente, ma penso, via Benson non mi risulta che ci sia. Sì, c'è, c'è una piazzetta lì, c'è una piazza dove sono le parcheggi, si parcheggiano le macchine, che poi da quelle praticamente risulta un angolo con la via parallela a quella, la via Sassari, capito, che scendendo ci si dirige al porto, ci si attraverso la pizzeria, cosa si chiama, di Giacco. Però posso dire tutte le attraverso di via Sassari. Da Biagi, via Biagi può essere, no? Ah, tu conta, nella via principale, scendendo Sassari, prima di arrivare alla piazza del comune, una traversa, due traverse prima svolti, perché se fai l'ultima traversa prima di arrivare nella piazza è contromano, devi entrare in quella prima, poi svolti a sinistra e poi come arrivi all'incrocio lì sulla destra c'è questo localino che ha due piani, piano di sopra e piano di sotto, e c'era tipo musica, stavo troppo vedendo, c'era gente ballando di reggae, musica reggae. Che devo vedere lì, cavati barriere. E adesso ti divertirsi, sì. E ce ne sono tanti di questi locali a Palotto, se ce ne da uno. Dietro via delle Vigne è un bel grande, tutta ventrate, che prima era una pizzeria. Ma se non c'è la gente che fa quante avarie? Ma è una fortuna, Stintino, se ti può interessare. Oggi c'è praticamente musica che parte dalle 22.30 e finisce domenica mattina alle 7. Ed è in via Asinara e si chiama Loro Meggio. Brava, ciao Sove. Allora, in poche parole, c'è la mia ragazza con delle amiche, quindi io con il finito di lavorare sono passato a Tisi, ho preso un amico io e siamo scesi lì da Porto Torres. Poi dopo una certa ora a Porto Torres siamo risaliti a Sassari, ci hanno fatto un paio di locali, lì per frappa ci siamo fatti di 5 e mezzo, segna il sonno, sono rientrato, sono svenuto. Vabbè, si faceva, quando ero ragazzo io, noi ci giravamo tutte le discoteche, stavo per una discoteca, per una virellata, poi ci avevamo fatto pure noi, e poi anche nei pub, i pub però prima si usavano, ce n'erano di più, c'erano più pub, adesso ci sono locali diversi, ma prima c'erano più pub, c'erano l'Arguiti, diceva, era uno grande. C'erano diverse parti e questi pub qua, Alghero ancora ci sono, Alghero nella via che va Recca ce n'è uno che una volta è successo una cosa, siamo andati con un amico a pescare, adesso si guarda in tasca, già, ti devo dire una cosa, è successo. Cazzo, le chiavi di casa mi sono dimenticato. No. E vabbè, là, non c'è problema. Avevamo già pescato. Ci fermiamo al pub. E abbiamo passato la notte lì. Ragazzi, comunque già ci sono anche a Sassari già di pub. Ce ne sono. Non ce ne sono più come prima, ma già ci sono. Allora, c'è il Gambetto, su quella via, cos'è? Via Cappella, qual è la via Trieste? Via Trieste, la prima via di via Lomberto. Quasi all'angolo per scendere via Varelli. Lì c'è il Gambrinus. Ed è, si scende anche la chiave di sotto, tutto in legno. E mangi, bevi, capito? Ed è un pub. Capo. E c'è quello squadrato. Ce n'è qualcuno ancora, ma non più come prima, c'era proprio il boom, c'era un bel, c'era proprio il boom dei pub, e poi hanno cominciato a calare, hanno cominciato a fare locali dove si balla, si fa karaoke, poi si mettono i tavoli tutti uniti, si balla sopra i tavoli, insomma, un po' fuori di stelle, tutti questi locali qua. Ciao, adesso parliamo al pomeriggio di stelle, adesso le commesse di multimedia, tutte focose, tutti ricchiamo in natale ai taurini, le commesse di multimedia, rogliose sono. Penso, veramente di brutto, un bel po' di anni fa, a pomeriggio di stelle, a una certa ora avevi le donne riparti la brocca, la singolellina, la talitaurini, ciao Natali. Ciao Cogliolo. Carissimo. Allora. Allora. Cappa. E poi avevo chiuso quel locale, non è più aperto, no? Non so. E c'è l'altro mondo, ce ne sono altri, Capaina, ce ne sono. Ah, ce ne sono, bisogna avere i soldi e sapersi divertire. Capo. Ma che vuoi dire a te? Non c'è nulla a Sassari, devi saper girare. Non è che non c'è nulla. Ti conosci nei locali? Io poi vedo un amico che mi gira tutti, se io voglio andare lui è stato per quello, per l'altro c'ha ingresso libero in un bel locale. Una volta siamo andati al Polvere di Stelle e c'era il Beato Angelico che stavano cantando, ma cazzo, una voce, quella tipa, non so se li ha mai sentiti, sai? Buono su che stai dicendo ora. Natalino! È una tipa grassa che canta con il coro, insomma, ha una voce con la ragazza, canta canzoni sconosciute. Stavi dimenticando il viaggio, ragazzi. sotteso, metti un lume così però per arrivare a dare dentro. Segnale di radio è buona, il segnale devo guardare, fa vedere. Dai, no, vabbè, dopo la metto, vedo un po' c'è sempre la stessa musica. Già va bene, non c'è niente. E dove le buscate queste russe? Già te lo dico di perso. Oh Dio, Radio Raspo! Devo sapere anch'io, cos'è sta cosa? Ah, è per pupi, le russe sono per pupi. Ragazzi, tanto sempre avateci musica, c'è un malugurone di ribelle di luce, boh. Buono, insomma, giusto. Ma cosa cazzo hai visto tu, cosa hai visto? Cazzo di aro. Ma ti faccio vedere un coso, una incrociata con un coso, una Bielorussia, un camioncino della Volkswagen degli anni 80, gas pedalita. Allora. Cazzo. Una è siberiana, questa che c'ho adesso. E l'altra è l'amica che me l'ha fatta conoscere, questa qui ho amico sublimando da qui all'altra. A vedi cosa ne dici, della roba bassata. Signoria, coccia. Sì, io penso che non lo so. Grava. Ma dovete salire stasera? penso di sì. Salve, Dio.